Francesco Polazzi, che cos'è l'Hub 155? Da dove nasce questa iniziativa? Qual è l'idea di base? Il Hub 155 sta prendendo forma da un paio di mesi, anche forse 3-4 mesi, ed è nato dal fatto di trovare un posto dove io potessi avere uno studio dove dipingere e uno spazio espositivo. Dopo mi sono venute in mente delle altre idee, c'è stata la decisione di utilizzare lo spazio per far esporre anche tanti altri artisti, per far conoscere ai ragazzi di Bologna l'arte che gira in questa città e quindi fondamentalmente far esporre gli artisti giovani di Bologna. Quindi è anche un punto di incontro e aggregazione. Sì, assolutamente, assolutamente. Diciamo, più persone interessate all'arte o artisti vengono a farci visita, si propongono, vogliono fare qualcosa con noi, meglio è. Oltre l'arte figurativa, l'arte visiva, abbiamo in mente di fare la presentazione di libri, quindi c'è in mezzo la letteratura, il giornalismo, insomma di fare sessioni musicali, di presentare dei DJ, di più ne ha più ne metta a livello di comunicazione tramite l'arte. Una nuova piazza, diciamo, a tutti gli effetti culturale, quindi oltre la parte, diciamo, dell'arte in generale è anche presente uno spazio sociale. Sì, allora oltre di questa idea di base ne ho parlato con mia sorella che stava tornando dal Brasile qualche mese fa, le ho chiesto se avesse avuto voglia di darmi una mano, di tirare fuori delle idee, di venire a lavorare con me in questo spazio. Ho accettato e diciamo è responsabile di altri progetti sul sociale, non c'è solo questo tra le sue idee. Visto che è qua con noi, passiamo la parola a Federica Polazzi che ci parlerà appunto dell'aspetto sociale di questa iniziativa. Nello spazio sviluppiamo anche dei progetti sociali che sono in elaborazione. Io stavo vivendo in Sud America e ho anche finito un libro che fra poco uscirà che si chiama Volando Voi, del viaggio. Stiamo sviluppando progetti sociali e siamo aperti a collaborazioni, stiamo iniziando appunto a conoscere altre associazioni di Bologna e anche italiane in generale per dare via a progetti che uniscano l'arte al sociale, che anche persone che abbiano creatività, abbiano voglia di aiutarci, noi siamo sempre aperti e disponibili. Quindi Francesco, qual è in sostanza l'obiettivo vero e proprio della vostra iniziativa? L'obiettivo di fondamentale, l'idea di base che comuna tutte le piccole idee che ci sono attorno a questo spazio è di creare una piattaforma dove i ragazzi di Bologna si possano trovare, proporre delle idee, creare qualcosa di bello per questa città, perché sembra che sia tutto un po' sparso, sembra che a volte che non ci sia nulla, in realtà sembra a volte che invece ci siano troppe cose. Vorremmo avere idee chiare sul creare un gruppo di ragazzi carichi per costruire dei progetti, dal mio punto di vista a livello artistico, dal punto di vista di Federica a livello sociale, insomma creare una realtà che sia cooperativa. Sono previsti già dei eventi in programma? Sì, abbiamo una scaletta di posizioni, tra le quali alcuni artisti giovani bolognesi, alcuni già affermati, alcune mostre di fotografie. Abbiamo anche una mostra in programma con i disabili dell'associazione Onlus che si chiama ANFAS, dove faremo un laboratorio, alcuni laboratori di pittura, li faremo esporre, e anche un altro laboratorio di pittura con dei ragazzi schizofrenici di Bologna che verranno in gruppo sempre lì al laboratorio e faremo fare una mostra. Loro sono veramente bravissimi, geniali, e infatti è una fortuna lavorare con loro. Quindi questo rientra pienamente nell'ambito anche sociale? Sì, infatti questo è un bel mix di artistico e sociale, e sì, è una delle idee per ora che stanno riuscendo meglio.